questa stanza vuota, quest'ombra che non va via e questa strana impertinente nostalgia. Perché questa radio spenta, quest'aria che non mi va e questa pioggia